Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Loretta Napoleone, economista, giornalista, saggista, da 30 anni studia i sistemi finanziari e economici con cui il terrorismo finanzia le proprie reti organizzative. Laurea in scienze politiche alla Sapienza, specializzazione alla London School, ha insegnato etica degli affari alla Business School di Cambridge, sposata con 4 figli, vive tra Londra e gli Stati Uniti, adesso in Italia per l'uscita del suo ultimo libro, Mercanti di uomini, il traffico di ostaggi e migranti che finanzia il jihadismo. Ecco, dottoressa Napoleone, intanto, cosa insegna quando insegna l'etica degli affari? Insegno che rubare non paga. Ma c'è mai stata un'etica vera degli affari? Un periodo in cui rubare non paga lo ascoltavano? No, assolutamente no, ma ci proviamo. Ci prova ogni volta, insomma, è ottimista. Nel suo ultimo libro, invece, lei si occupa di mercanti di uomini, l'abbiamo detto, e dei legami tra il traffico di cocaina, rapimenti, l'ISIS, l'andrangheta. Perché tutto è cominciato con la cocaina? Perché la cocaina è la fonte principale, è stata la fonte principale del finanziamento del jihadismo nel Sahel, in Africa. Oggi migliaia di rifugiati approdano sulle nostre coste, lo sappiamo. Chi lo controlla questo business realmente? Ma è controllato da una serie di organizzazioni che non sono assolutamente organizzazioni come la mafia, ma sono piccoli gruppi di criminali. E quanto vale? Tanto, è difficile quantificarlo. Ecco, ma in che modo il traffico di uomini finanzia il terrorismo? Una parte del traffico finisce nelle tasche dei terroristi perché pagano una tassa di transito. Ecco, dottoressa Napoleone, lei scrive che nel 2015 1.800.000 persone sono entrate nell'Unione Europea e che il numero è destinato a aumentare, lo sappiamo, oltre ai mercanti di uomini. Chi altro ha interesse a vederlo aumentare questo traffico? Tutti, dal crimine fino alle alcune organizzazioni caritatevoli. Anche quelle? Certo, ci guadagnano. Dal 2010 al 2013 i migranti erano prevalentemente giovani, maschi africani. Adesso assistiamo a un esodo spesso di bambini senza genitori. Perché? Traffico di bambini? No, è più facile farli entrare. Poi chiaramente molti vengono trafficati, certo. Ma trafficati per cosa? Organi cosa? Ma pedofilia. Organi, pedofilia, pornografia. Lo stesso però vale anche per le donne incinte, come mai? È sempre più facile far entrare una donna incinta che una donna non incinta, cioè il discorso dell'umanità, diciamo. Senta, ma quanti di questi minori poi in realtà spariscono? Ma direi non più del 10%, non tanti. E vanno a finire lì, come abbiamo detto? Certo, vanno a finire lì. Sono sempre tanti per quello che succede, certo. Ma le rotte dei trafficanti cambiano continuamente. L'Italia però oramai è la via di accesso privilegiata all'Europa, mi pare, no? È rimasta solo lei. Assolutamente la più importante, e lo è da 20 anni. Comunque il numero dei rifugiati che sono accolti dall'Italia rimane relativamente modesto se confrontato con gli altri paesi. Vuol dire che è un paese di transito prevalentemente. Un corridoio. Hanno ragione i demografi che dicono che i migranti ci servono? No, assolutamente no. Dipende quanti migranti riusciamo ad assorbire. Non dimentichiamoci che i migranti devono anche essere accolti. Quindi certo, fino al momento in cui operano, di tempo ne passa. Senta, dottoressa Napoleone, è d'accordo con chi sostiene che la Libia è una sorta di grande raduno del jihadismo internazionale oggi? Sì, adesso sì, il perché? Sud. Beh, perché è una zona ancora non sotto controllo, diciamo, una zona ancora in stato di totale anarchia politica. Cioè, meglio quando c'era Gheddafi. Assolutamente la più sicura, certo. Senta, ma lei cosa pensa del piano del nuovo ministro dell'interno Minniti di aprire un centro di identificazione di espulsione in ogni regione? Ma secondo me non serve assolutamente a nulla, perché se l'Italia è un corridoio, perché spendere soldi? Ecco. E qual è la differenza tra i centri di accoglienza e i centri di identificazione? Il centro di accoglienza è un luogo dove l'individuo viene sostenuto, quindi gli viene dato da mangiare, da vestirsi e via dicendo, dove vive. Il centro di identificazione dove viene invece identificato all'inizio. Ma quanto costa un migrante in un centro di accoglienza ogni giorno? In Italia 35 dollari al giorno. 35 euro al giorno. Beh. Nel suo libro lei cita il caso della Norvegia e dice: in Norvegia il 90% dei rifugiati è assistito da società a scopo di lucro. Quindi a fare i soldi sui migranti non sono solo i trafficanti. No, assolutamente no, ma la Norvegia lo fa perché il governo ha fatto una scelta, non ce la faceva. Quindi ha detto vabbè. E quindi ha detto lo delego. Delego e fate voi gli affari. Certo. Ma il giro stimato in Italia dei centri di accoglienza qual è, secondo lei? Io devo dire la verità, le cifre non ce le ho, però se facciamo un calcolo rapido, ogni migrante sono 35 euro. Certo, vediamo se si arriva in fretta. Ma i migranti espulsi dall'Europa, dall'Italia, dove vanno a finire? Allora, i migranti espulsi sono pochissimi, perché tutti hanno l'asilo umanitario. È rarissimo che vengano espulsi. E se vengono espulsi, vengono riportati nel paese d'origine. Ma sono pochissimi. Sono pochissimi e noi paghiamo, chiaramente, per riportarli. Nel suo libro lei descrive i campi libici come quelli di Kufra, per esempio, come dei veri e propri gulag. Sono così, sono proprio... Assolutamente vero quello che è scritto nel libro. Ma c'è il rischio che la Libia diventi una nuova Somalia in qualche modo? Sì, secondo me c'è questo rischio. Perché? Perché il paese è completamente destabilizzato e non si riesce a riportarlo ad un ordine politico, diciamo, basilare. Senta, dottoressa Napoleone, lei scrive: è in Libia che possiamo vedere con estrema chiarezza il circolo vizioso creato dagli aiuti italiani ai paesi ex coloniali, dagli interessi delle nostre imprese e dall'economia dei sequestri, cioè... Cioè noi facciamo affari con la Libia, non abbiamo mai smesso di fare affari con la Libia e chiaramente facendo affari con la Libia finanziamo chiunque gestisce la Libia, inclusi chiaramente i jihadisti. Lei scrive anche che i riscatti come gli aiuti economici sarebbero una sorta di tangente che viene pagata per poter continuare a fare affari in Libia. Ah, sicuramente è così. L'Italia è un bellissimo esempio. Noi paghiamo sempre, paghiamo specialmente in Libia e questi soldi finiscono nelle tasche dei rapitori e dei jihadisti. E questo garantisce la nostra possibilità di fare affari lì, garantisce un po' gli interessi dell'ENI, per esempio? Di tutti gli altri, non solamente dell'ENI. Non è solamente l'ENI che è presente in Libia. C'è tutto un indotto creato dalla presenza dell'ENI in Libia che è molto importante per la nostra economia. Ma Greta e Vanessa, ricorda, le due ragazze rapite in Siria nel 2014, sono state liberate dopo una trattativa molto lunga. Lei crede che sia stato pagato un riscatto? Sì, è stato pagato il riscatto. Lo sa per certo? Sì, molto alto. Quanto? 16 milioni di euro. 16 milioni di euro pagati dal governo italiano? Sì. In un'intervista, pagati a chi? Pagati agli intermediari, una parte di questi soldi sono scomparsi, sono stati rubati dagli intermediari, poi dal capitano del gruppo che l'aveva rapita, insomma c'è stata una suddivisione della tangente. Sì. Ma in un'intervista televisiva però il ministro degli esteri di allora, Paolo Gentiloni, che oggi è il premier, ha ammesso che Greta e Vanessa erano state sconsiderate, però ha detto che meritavano di essere aiutate perché avevano offerto assistenza alla popolazione in circostanze difficili. Insomma, un modo elegante per dire abbiamo pagato perché se lo meritavano? Dunque, Greta e Vanessa hanno portato dei kit mimetici per i ribelli, quindi per chi combatteva, sono state rapite dalle persone che le hanno invitate ad andare, che avevano conosciuto attraverso Facebook, quindi mi sembra un po' eccessivo dire che erano andate a aiutare la popolazione. Insomma, gli stati negano di pagare il riscatto, lo fanno tutti, però lo pagano tutti, insomma è così che si finanziano i terroristi. Sì, anche. Sì, assolutamente, tutti pagano, alcune nazioni tutti non... Tutti lo negano però. Ma certo che tutti lo negano, però tutti pagano, chi non paga direttamente fa gli scambi, però alla fine quello che è importante è la negoziazione. Quando dice scambi di prigionieri, cose così, sì. Sì, cioè, gli americani hanno scambiato prigionieri di Guantanamo per soldati americani presi in Afghanistan. Senta, in caso di sequestro, le ONG sostengono, alcune, che ci sarebbero strategie alternative al pagamento del riscatto, È vero, quali? Sì, assolutamente, ci sono delle strategie. Per esempio, quello che le ONG vorrebbero fare è di restituire ai rapitori la somma spesa per fare il rapimento, e quindi compensarli, invece di dare un prezzo, invece di applicare un prezzo a una vita umana. Senta, dottoressa Napoleoni, ma sono valide queste alternative? Mi pare di no, renderebbero molto meno. Sì, secondo me sono valide, ma chiaramente il problema fondamentale è che per portare avanti queste alternative bisogna avere una presenza sul territorio, quindi bisogna avere dei contatti locali per poter condurre questo tipo di negoziazione, e i governi non ce l'hanno. Oh. E tanto più ci si affida ai droni, tanto meno si avranno questi contatti. Certo. Senta, ma oltre a queste forme di finanziamento, diciamo indiretto, chi finanzia i terroristi? Ma i terroristi vengono finanziati, per esempio nel caso dello Stato Islamico, attraverso un sistema di tassazione, perché controllano un territorio che è ricco di risorse naturali, e poi ci sono gli stati che finanziano, cioè il finanziamento del terrorismo da parte degli stati. E quali sono gli stati? Beh, dipende da dove ci troviamo. Nel caso, sicuramente nel caso del jihadismo, sono i paesi del Golfo, sono i paesi. Cioè l'Arabia Saudita? Assolutamente, l'Arabia Saudita, il Qatar, il Kuwait, tutti questi. Ma perché è così difficile seguire le tracce del denaro che va ai terroristi? È difficile oppure non ci prova nessuno? No, è molto difficile perché è tutto in contanti. Dall'11 settembre in poi non si muove nulla attraverso il sistema finanziario internazionale. Tutto in contanti. Valigette. Valigette. Mm-hmm. Siamo tornati alle valigette. Forse non si è mai smesso. Sì, infatti. Ecco. Senta, ma all'inizio, quando ancora non comandavano il territorio, chi la finanziava l'ISIS? L'ISIS è la finanziata dall'Arabia Saudita, certo. Chiaramente il discorso è: l'ISIS è un'organizzazione sunnita che lottava contro un regime sciita, e ecco fatto. È andata così. E la nascita dello Stato Islamico è stato il punto di svolta, il salto di qualità, perché c'era il territorio. Assolutamente, lo Stato Islamico è stato molto bravo, ha usato quei soldi invece di combattere una guerra per procura per i sauditi, per organizzarsi e trovare un territorio che fosse un territorio ricco di risorse naturali. Senta, lei dice che nel suo libro che la conquista del territorio appunto è fondamentale per capire come si finanzia l'ISIS. E l'autofinanziamento è quello delle materie prime del territorio? Sì, assolutamente, le materie prime vengono Cioè petrolio prevalente. Petrolio, acqua, anche territorio ricco dal punto di vista agricolo. Queste risorse vengono date in gestione alla popolazione locale, che paga una tassa, esattamente come succede nei paesi negli stati. Esatto. Nel suo libro precedente, L'ISIS, lo stato del terrore era il titolo, lei sosteneva che l'ISIS, che all'epoca era grande più o meno come il Texas, poteva diventare per gli islamici l'equivalente dello Stato di Israele per gli ebrei, cioè rappresenta la realizzazione del sogno utopico musulmano, quindi la creazione di uno Stato che sia uno Stato che li protegga, li difenda, parliamo sempre dei sunniti chiaramente, dovunque essi si trovino, che è lo stesso concetto di Israele. Ma è una previsione ancora valida? Secondo me sì, non importa quanto sia grande questo Stato, guardiamo lo Stato di Israele, ha iniziato essendo molto molto piccolo, non importa, l'importante è che esista, che esista e che sia rapporto, il punto di partenza. Un territorio, un popolo. Sì. Quello sostanzialmente. Sì. Ma perché l'Occidente non è stato capace, o forse non ha voluto, prevedere e bloccare la nascita dello Stato Islamico? Non è stato capace o non ha voluto? No, l'Occidente non è stato capace perché ha delegato la gestione della politica del Medio Oriente agli alleati del Golfo, quindi all'Arabia Saudita. Quindi sono completamente disinteressati di quello che succedeva in Siria. Quindi, dottoressa Napoleone, un massimo di contraddizione, perché l'Arabia Saudita finanzia il terrorismo, noi facciamo la lotta al terrorismo, ma siamo alleati dell'Arabia Saudita. Beh, però inizialmente in realtà noi non eravamo contro lo Stato Islamico. Non dico noi. Cioè l'Occidente non nemmeno sapeva che esisteva lo Stato Islamico. Andava bene che un gruppo armato che si chiamava appunto lo Stato Islamico dell'Iraq ai tempi combattesse per noi contro il regime di Assad. Nessuno lo sapeva che lo Stato Islamico che sarebbe andato avanti la storia. Ma bombardare la Siria è stato un errore secondo lei? Enorme, assolutamente enorme. Lo Stato Islamico voleva questo tipo di bombardamento perché ha giustificato la propria esistenza. Vedete, questo è quello che dice: loro ci bombardano e io vi proteggo. E allora quando Putin e il Papa insieme hanno bloccato la decisione di Obama di bombardare definitivamente Assad, è iniziata una controoperazione. Assolutamente, hanno fatto benissimo, cioè nel senso, alla fine di tutto questo forse il nemico peggiore non è Assad ma qualcun altro. Tipo? Ma tipo lo Stato Islamico, tipo anche la presenza di stati come l'Arabia Saudita. Lei sostiene che l'ISIS ha creato diverse organizzazioni fittizie che si sono infiltrate anche nella rete degli aiuti umanitari e riescono a prelevare una quota di questi soldi che servono per finanziare gli aiuti umanitari, è così? Sì, questo succede spesso, però l'abbiamo visto anche con Al-Qaeda. È molto difficile capire poi i soldi dove finiscono quando abbiamo questo numero enorme, vastissimo di profughi e rifugiati. E quindi è vero dire sui barconi ci sono gli uomini dell'ISIS anche infiltrati, è possibile? No. Io non credo che ci siano gli uomini infiltrati, però è vero che c'è un tipo di indottrinamento che viene fatto specialmente da chi parte dalla Libia, che nel momento in cui poi l'emigrato si trova in gravissime difficoltà, potrebbe scattare e lì inizia l'attività. Ma gestire una rete terroristica quanto costa? Ma dipende, lo Stato Islamico nel momento in cui era uno stato abbastanza grande come il Texas aveva un turnover, cioè una gestione intorno ai 2 miliardi di dollari, quindi non è tantissimo, ma non è neanche che poco. Pochissimo. Ecco, dottoressa Napoleoni, ma le comunità islamiche che vivono in Europa finanziano l'ISIS o no? Secondo lei? No, io penso che alcune comunità islamiche hanno rapporti con persone, di famiglie che sono andati a combattere lì e che li aiutano, ma finanziare direttamente l'ISIS no. Individualmente. Ma lei crede che nelle moschee italiane, per esempio, si faccia reclutamento attivo? No, il reclutamento non avviene nelle moschee, avviene attraverso l'internet. Tutto attraverso internet. E perché l'Italia è stata risparmiata dagli attentati, secondo lei, proprio solo perché è un passaggio? Perché l'Italia è un corridoio, non si fermano, quindi non c'è questa realtà di tentativo di essere assimilati, non ci sono le frustrazioni. Però i simboli come il Vaticano sono simboli forti. Ma secondo me non gli interessa assolutamente il Vaticano, non dicono nulla contro il Vaticano, non dicono nulla contro Israele. Loro sono concentrati su un progetto nazionalista, è questo che noi non riusciamo a capire. Certo. Ma quindi non è merito della nostra intelligence se non ci sono attentati? No, non credo. Credo che la nostra intelligence sia molto fortunata perché questi transitano e non si fermano. Cioè, San Gennaro aiuta. Certo. Senta, ma sapremo mai la verità su quello che è capitato a Regeni, a Giulio Regeni, secondo me? No, secondo me la verità non la sapremo mai. Ma perché? Ma perché dava fastidio, perché... Ma dava fastidio vuol dire che allora lavorava per conto di qualcuno, non lo so, perché fastidio perché? Beh, sono mandato dall'Università di Cambridge e ha iniziato ad avere dei rapporti con la Fratellanza Musulmana. La Fratellanza Musulmana è il nemico numero uno... Di Al-Sisi. Assolutamente, di Al-Sisi. E la Fratellanza Musulmana è presente adesso in tutto il Nord Africa, anche in Libia. E questa è la ragione per cui Regeni probabilmente ha subito questa violenza. Assolutamente, credo che Regeni neanche era cosciente del rischio che correva. Ma ci sono delle mosse che l'Italia avrebbe dovuto fare per arrivare alla verità sul caso Regeni e non le ha fatte per ragioni di opportunità politica? Assolutamente. Sicuramente, assolutamente cioè, sì. Ma perché, certo, ma perché portiamo gli ostaggi a casa e poi lasciamo i morti invece non... Neanche recuperiamo i corpi, quasi. Sì, ma soprattutto non sappiamo perché sono stati uccisi. Cioè, Ma siamo ancora in tempo o no? C'è una se vede vagamente nessun interesse. E non credo che ci riusciranno, tra l'altro. Non abbiamo questo tipo di peso politico in queste parti del mondo. Senta, dottoressa Napoleoni, perché anche tanti ragazzi che sono cresciuti nei paesi occidentali si lasciano sedurre dall'ISIS? Perché è un sogno politico fantastico, vieni e crea una nazione. Cosa ma c'è secondo lei meglio? C'è un'analogia in questa situazione individuale con le nostre Brigate Rosse? Sì, ci sono alcuni dei elementi delle Brigate Rosse, sicuramente, che è appunto questo desiderio di creare un nuovo mondo. La purezza di un ideale. Assolutamente, assolutamente. Lei ha detto che il messaggio dell'ISIS è anche positivo, ecco, in che senso? Beh, positivo perché non dicono ucciditi, immolati, come diceva Al-Qaeda, dicono no, vieni qui e diventa uno dei padri fondatori della nuova nazione, noi vogliamo che tu viva, quindi secondo me questo è un messaggio assolutamente positivo. Senta, ma i video dell'ISIS andavano censurati o no? Secondo me sì, andavano censurati dall'inizio. Dall'inizio? Sì, però è impossibile censurarli, perché oramai, è impossibile censurare l'internet. Certo. No, è impossibile no, però sarebbe veramente una cosa controcultura, diciamo. Sì, ma non si sapeva, e di nuovo torniamo all'ignoranza sul fenomeno ISIS. Esatto. Non sapevamo che c'era, che c'era dietro. Senta, ma qual è il punto debole dell'ISIS allora, secondo lei? Perché messa così sembra invincibile. Ma secondo me il punto debole dell'ISIS è il punto debole di qualsiasi progetto nazionalista, nel senso è troppo chiuso, stato sunnita, super omogeneo, quindi mancanza del multiculturalismo. E questo sulla lunga distanza sicuramente è il punto più debole. È il punto più debole. Senta, dottoressa Napoleone, Gentiloni, il presidente del Consiglio italiano, ha detto che l'ISIS potrebbe essere sconfitta entro il 2017. Lei ci crede? Assolutamente no. No, perché? Ma perché è impossibile, nel senso, sconfiggere l'ISIS vuol dire sconfiggere tutta l'ISIS, e che vuol dire anche sconfiggere l'ISIS che si trova in Libia, quella che si trova nell'Africa occidentale, quella che si trova oggi nelle Filippine. Non è possibile. Non credo. Lei, abbiamo detto, vive tra Londra e gli Stati Uniti da oltre 30 anni. È cambiato qualcosa per lei con la Brexit? No. Perché? Beh, io ho ancora un passaporto italiano, posso prendere un passaporto inglese, quindi... Lo può prendere, ecco, ma c'è qualcosa che la spaventa della Brexit oppure no? No, io sono a favore della Brexit. A favore della Brexit, sì. Senta, Brexit, elezioni di Trump, vittoria del no al referendum in Italia, se lei vede un filo rosso che lega questi avvenimenti? Sì, questi secondo me sono avvenimenti positivi, nel senso il popolo ha deciso che il political correct non funziona più, vuole la verità. Cioè le elite non raccontano la verità al popolo e non lo sanno guidare. No, assolutamente questo. No. Guardiamo Davos, per esempio, tutte le previsioni di Davos sono state sbagliate. Quindi... Senta, dottoressa Napoleone, lei ha detto che oggi il Papa è l'unico vero politico che sia di livello internazionale. Perché? Perché il Papa ha avuto il coraggio di dire quello che bisognava dire, quindi di essere il primo che non è stato politically correct. Dopodiché abbiamo avuto Trump, ma c'è anche Putin, che è l'unico che capisce la realpolitik. Senta, l'hanno più volte avvicinata, accostata a Grillo. Lei però ha detto no, non è vero, non sono vicino a Grillo, è lui che si è ispirato a me. In che senso? Ma i giovani del Movimento 5 Stelle, prima che venisse eletto, hanno cercato di prendere alcune delle mie teorie economiche, specialmente per quanto riguarda l'euro, la presenza dell'Italia all'interno, appunto questa costruzione monetaria. Ma lei la vede in disfacimento l'Europa organizzata intorno all'euro? Assolutamente, sì. Se Le Pen vince in Francia cambierà tutto. Senta, l'immagina come forza di governo i 5 Stelle? No, assolutamente no. Cioè sono un movimento che? Che non ha nessuna idea politica vera. E quindi? Non ha nessuna posizione, quindi come può governare? Non prende posizione, bisogna avere coraggio. Ecco, sotto questo punto di vista bisogna avere il coraggio di essere politically incorrect. Senta, dottoressa Napoleone, lei ha detto sono un'emigrata, non un cervello in fuga. Me ne sono dovuta andare dall'Italia contro la mia volontà, niente di glamour, cioè? Cioè io non ho trovato lavoro, per cui sono dovuta andare tanti anni fa. Ah sì? Già. Accidenti. Non avevo nessuna conoscenza. Ma oggi ci tornerebbe in Italia? Mai. Mai? Mai. Perché mai? Perché non è cambiato nulla, ancora non ho nessuna conoscenza. Grazie dottoressa Napoleone. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora Mario Pietrangelo, che titolo facciamo? Ciao, che titolo facciamo per l'intervista da Napoleone? Chiudo sull'ultima parte dell'intervista, una ventata di ottimismo. E tu Pietrangelo? A profughi cercasi. Perfetto. Che cosa ci fai sentire oggi? Arriva. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. E a chi la dedichi? È come un castello su un colle, come un castello su un colle la giovinezza, ed è tutto uno stare in mezzo al cielo, a farsi largo tra gli azzurri e le nuvole bianche sballottolate di baci, che il vento, forte di odori, accende di danze. Ha chiamato, caro Giovanni, ha chiamato Dioniso in persona. Ha voluto questo brano da dedicare alle menadi, tutte. Non si fa mancare niente Dioniso, Mario? Vabbè, d'altronde allegria sfrenata, miti greci. Guarda, io mi occupo di cose. Non è un mito, non è un mito. Sempre miti sono. È sacro. Vabbè, no, non apriamo un dibattito sul sacro in questo momento. Allora, vuoi parlare di sacro, Giovanni? No, volevo parlare della tua bolla. Secondo me vai in America, come automobili americane, cose così. Direi di sì. Mia fissa, l'avete capito? Per questa settimana non ce n'è. Laura Pergolizzi, LP Other People. Senti che voce. Allora, non si può che amarla. Alessandro in regia ride, non so perché. Vabbè. Sì, vado in America, Giovanni. Make America Toyota Again. Perché? Perché il costruttore giapponese ha annunciato un lieve investimento di 10 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni negli stabilimenti, nelle fabbriche americane. Li sta convincendo tutti Trump? Direi proprio di sì. Tu che impressione hai? No, mi sembra, non lo so. Tu che dici dopo questo incontro alla Casa Bianca? È stato meraviglioso. Dai. L'immagine di Marchionne al fianco di Trump, con Mary Barra di General Motors dall'altra parte, il CEO di Ford che subito dopo l'incontro, Giovanni, ha fatto delle dichiarazioni. C'era da rileggere cosa dicevano tempo fa, dicendo che con Trump si lavorerà benissimo, ci sarà un grande futuro nella manifattura, e sono tutti molto ottimisti. La verità, a questo punto, l'auto è veramente, come dire, il centro, il fulcro di quella che sarà poi la politica protezionistica di Trump. Poi protezionismo è da interpretare, diciamo. Però, si vedrà come sarà. Esatto, si vedrà come sarà. Una cosa è certa, i fatti che stanno accadendo in queste ore, fino a questo momento, su quel punto là non fanno una piega, cioè danno ragione a Trump, cioè i costruttori stanno andando in quella direzione. E come diceva l'avvocato Agnelli, sempre, comunque, gli imprenditori stanno sempre col governo. Questo mi sembra, pare abbastanza. Fotograficamente l'immagine di Obama e di Marchionne in fabbrica con gli occhiali e quella di ieri sera, di ieri sono la rappresentazione, la conferma. Aggiungo solo una postilla, Giovanni, a questa bolla è che oggi ci saranno degli ordini esecutivi molto importanti sull'immigrazione. C'erano già delle voci ieri, paiono confermate. Sempre sui muri? Dunque, intanto ci sarà una restrizione all'ingresso ai paesi di origine islamica, paesi che hanno problemi col terrorismo, eccetera. E poi dovrebbero esserci dei provvedimenti che riguardano il Messico, poi vediamo adesso nel dettaglio in giornata. Come annunciavamo ieri, sono state confermate altre nomine di Trump, in particolare quella alle Nazioni Unite con Nikki Haley. Quindi, e che cosa significa secondo te quella nomina? Ma sai, quella era una nomina sorpresa, perché era diciamo, una nomina non di un Trumpian di quelli duri e puri, quindi è interessante vedere come si muoverà lui con le Nazioni Unite, sai, certo. entriamo in una terra sconosciuta. Nella diplomazia. Sì, sì. Salamino! Raggi di sole, finalmente raggi di sole nei giornali. Oh, non aspettava altro la moribonda stampa autorevole. Virginia Raggi, sindaco di Roma, è indagata. Abuso e falso. Vivere senza malinconia. Abuso e falso, dunque, sulla nomina del fratello Di Marra, ex capo del personale alla guida del Dipartimento al Turismo. Ed è lo stesso sindaco a dare notizia dell'invito a comparire in procura. Ci sono in ballo, caro Mario, 20.000 euro di stipendio. Giovanni, credo che sia una cifra spaventosa, pari alla tangente, quella terrificante, come si chiamava, quella di Siemens, no? Siemens globale, sì. Una cosa, i giornali dopo l'estenuante caccia ai congiuntivi sbagliati degli esponenti a 5 Stelle possono esercitare il loro dovere di controllo. Qui si abusa e Renato e Raffaele Marra sono il duo del buio su cui Raggi non ha portato luce. No, erano i Romolo e Remo di cotanta lupa. E finalmente i giornali, caro Mario, caro Giovanni, unici titolati a indirizzare l'opinione pubblica, possono informare tutti quanti su quello che non è successo, e cioè che questi raggi di sole nelle tenebre della crisi dei giornali possano finalmente dare la verità. Repubblica! No, Repubblica può anche fare un trattamento Berlusconi alla maldestra Virginia. No. Perché se al cavalier Puzzone fece il martellamento di 10 domande, 10, al sindaco di Roma viene dato un antipasto di almeno 3 bugie. Matteo Renzi magnanimo invita i suoi del Partito Democratico a non attaccarla. Ci pensano però i suoi giornali di riferimento, quelli dalla schiena dritta a fare zuppetta con un coraggio degno di miglior causa. Un'ultima accusa è quella di aver deciso Beppe Grillo una stretta sulle dichiarazioni e le interviste dei parlamentari grillini da dare ai giornali e alle televisioni. È come se non fosse un metodo collaudato, ma proprio dal PD. Giovanni, ce lo ricordiamo, a decidere sulle uscite degli esponenti. Noi stiamo ancora aspettando, no? Stiamo ancora aspettando, sì. È sempre il capo ufficio stampa a decidere. Che ora, nel frattempo, ha cambiato premier. Ma certo. Però Mariella non è ancora venuta. No, Mariella non è ancora venuta perché lì c'hanno un Rocco Casalino un po' più glamour. Altrimenti ancora ci sarebbe in giro per le televisioni e tra i giornali. Ve la ricordate? Non voglio acquisire lo stile maschile nel fare politica, voglio avere il mio stile femminile. Ho deciso per esempio di andare dall'estetista ogni settimana. Cosa faccio dall'estetista? Qualsiasi cosa, mi prendo cura di me, mi faccio le mesh, mi faccio la tinta, poi non entriamo in altri particolari, vado a correre. Potranno criticare perché cosa devo avvenire con i peli, i capelli bianchi. Il nostro stile di fare politica è uno stile ladylike, cioè uno stile che deve piacere. Senza peli, senza tinte, sta povera Lady Like fu fatta sparire, altrimenti ci sarebbe. Ma sono raggi di sole finalmente. Vivere senza malinconia. Oh, Giovanni. Quanti problemi questi fratelli danno, eh? Povero Marra, pensa al fratello di Alfano, poverino. Tutti Romolo e Remolo, per dirla con Berlusconi. Altra storia meravigliosa. Boh, a me sembra tutti anche una lì banda sono 20 di sfigati, no? Mai vista. Ma più o meno, adesso non lo so il dettaglio. Non sono 20.000 però. No, era un po' di più. C'era uno zero in più. Uno zero in più. C'era uno zero in più, che non è una gran differenza, però insomma. Però ora i giornali. Non ti dico. Ce l'hai un'altra bolla, Mario? Sì. Lui aveva citato Pietrangelo e Lady Like, in realtà questa è Lady Writer dei Dire Straits, bellissimo, non l'abbiamo neanche fatto apposta, vediamocene giusto una frazione. Che meraviglia Mark Knopfler. Allora, Giovanni, sta succedendo qualcosa agli Oscar, che a te non è sfuggito ovviamente, perché hai sempre l'occhio attentissimo, certo. L'udito sempre sintonizzato su queste cose. Allora, Manchester by the Sea, che ha conquistato 6 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, è un caso che dovrebbe allarmare, diciamo, quantomeno far fare qualche pensiero ai produttori cinematografici tradizionali, perché parliamo di un film di Amazon. Infatti, è una grande novità secondo me, perché Amazon, producendo direttamente o acquisendo diritti di distribuzione, di fatto dopo un solo anno di attività, ricordo benissimo il giorno che annunciamo proprio qui a Mix24 l'ingresso nel mercato dell'entertainment direttamente di Amazon, ebbene dopo solo un anno è già in vetta. E allora, insomma, forse qualche considerazione più che mia tua va fatta su una cosa che secondo me è molto rilevante, infatti, nella costruzione dell'immaginario. Prego, infatti, Giovanni. Come vedi, tutte le concentrazioni che si stanno costruendo nel settore cambiano di giorno in giorno, perché questi sono i nuovi tempi. È così. Scusa, ma a quel punto quello che stiamo vedendo per fermare, che ne so, la convergenza tra Vivendi e Mediaset è antidiluviano, cioè mi sembra molto molto antistorico e antidiluviano, hai detto bene, cioè sono metodi e mezzi che sono fuori dalla storia in qualche modo. Canzoniere. Non so se tra rocce il tuo pallido viso m'apparve, o sorriso di lontananze ignote fosti, la china e burnea fronte fulgente, o giovine suora della Gioconda, o delle primavere spente per i tuoi mitici pallori, o regina adolescente. 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666, viabilità. Mix 24. Quante case avevate come reazione 8, spagnola? 8 case. E quante persone in tutto c'erano protette? Non glielo so dire, ma la cifra che ha dato che hanno dato i giornali ungheresi nel 1945, che parla di 5.200, siamo lì, insomma. E chiunque veniva alla legazione spagnola, lei gli faceva una lettera di protezione? Sì, qualsiasi. Non c'era discriminazione, non c'era scelta, te sì e quell'altro no. E i soldi? I soldi. Prima abbiamo consumato quelli della legazione, ma erano pochi. Poi ne ho consumato un pochi dei miei, che avevo in tasca. Senta, lei una volta mi ha detto che in realtà tutto quello che ha fatto è stata una grande questione di raccontare delle balle. Sì. È vero? Sì. Al governo ungherese abbiamo raccontato sempre delle balle, sempre. E lei quando raccontava queste balle come si sentiva? Normale. Ma le venivano bene? Sì. Sembra di sì. Sembra di sì, perché hanno avuto un buon risultato. Quello che avete sentito era la voce di Giorgio Perlasca, intervistato da Enrico De Aglio per Mix, un eroe italiano che fingendosi console spagnolo a Budapest riesce a salvare oltre 5.000 ebrei dai nazisti. Dopo il Giornale Radio, nella settimana della memoria, raccontiamo oggi la storia di Giorgio Berlasca, di questa banalità del bene straordinaria. E Mario, c'hai un aggiornamento tu? Sì, no, vorrei dire che i giornali oggi, giustamente Pietrangelo faceva notare come c'era questa specie di parossismo, ipertitolazione sulla Raggi, che francamente era una storia già scritta. E invece la notizia, secondo me, importante, che ha un vero impatto e di cui non si cura nessuno, ma ci siamo abituati, è quella che viene fuori dalla Lautenschlager, che è uno dei membri del board della BCE, vicinissima a Angela Merkel, che dice con ottimismo che tra un po' escono dal quantitative easing, cioè non si acquisteranno più i bond, comunque ci sarà un nuovo taglio. Ora voi immaginate che cosa significa per l'Italia. Ecco, la BCE ha comprato 200 miliardi di titoli italiani, ma il prezzo che ha fatto Draghi per l'uscita d'Italia dall'euro, Come la interpreti? Quei 300, mi sembra, 70 miliardi, ha detto sì, si può uscire, però bisogna pagare. Ma secondo me Draghi sta chiaramente calcolando una cosa, che in Europa ci sono tre turni elettorali molto delicati, e quindi Olanda, Francia e Germania. Non è detto che portino direttamente all'uscita di un paese, però tu immagina... Insomma, ha messo le mani avanti sul prezzo, sì, dai. Poi c'è l'incalcolabile. Esatto. Se allora, esce la Germania, cosa fanno? Certo, fanno un nuovo euro solo loro, con gli adepti. Senti, abbiamo Massimiliano D'Ancona per il canzoniere. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, e allora buongiorno. Cosa ci dice? Ma il canzoniere, credo, Dino Campana, La Chimera. Giusto. Mi ricordavo. Bravissimo. Come va D'Ancona? Beh, va bene, insomma, adesso ci si rimette a posto anche con questo inverno che è stato particolarmente drammatico, drammatico. Che fa lei ad Ancona? Cosa fa di bello, di mestiere? Sono un medico del lavoro, lavoro in un servizio di pubblico, ma oggi sono in ferie perché c'è un trasloco. Ah, bene. Quindi... Allora, auguri, buon trasloco. Grazie, e intanto con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA, agosto 2016, gli insetticidi. Come sapete, ci sono un mucchio di insetticidi che ci proteggono da zanzare, mosche, zecche. Sono vari, sono l'icaridina, la dietiltoluamide, gli estratti vegetali di eucalipto, di citronella, la permetrina, eccetera. E allora in questo lavoro sono andati a vedere quelli che sono più efficaci e che danno poi meno effetti collaterali. E credo che valga la pena saperlo. Allora, il principio attivo di maggiore applicazione è la dietiltoluamide. Per capirci, è quello che come nome commerciale è il vape o le salviette off. Non faccio pubblicità perché non la voglio fare, dico solo per riconoscibilità. E questo, la dietiltoluamide, è il principio attivo di maggior applicazione. Ci sono formulazioni dal 7 al 35% di concentrazioni e la concentrazione più bassa può essere applicata a soggetti con più di 12 anni di età. Alle concentrazioni più elevate può irritare la pelle ed è sconsigliata l'applicazione sul viso. Il secondo è l'icaridina, anche qui è l'autan per capirci, è uno dei più recenti principi attivi immessi sul mercato, a scarso assorbimento cutaneo, caratteristica che consente l'applicazione anche a bambini con più di 2 anni, esclusa la formulazione spray. E appunto è quello che probabilmente forse è quello che dà meno problemi e che soprattutto può essere usato nei bambini. Sono questi composti in genere comunque abbastanza sicuri e, ripeto, l'icaridina forse è quello che è meglio tollerato. La cosa curiosa che però l'articolo suggerisce è quella comunque di vestirsi, cioè di averci dei vestiti che proteggono per definizione dall'insulto delle mosche, delle zanzare e delle zecche. E per chiudere, Gloria Guerrera, stamattina cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi ha pensato molte volte di tornare, ha rimandato, oggi però vuole rischiare. Patti Pravo, Tutto al più. Oh, you.